te soy, María Serena. Dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata e sole. Magna tu sole, che bello in me. Ah, sole mio, t'affronta a te. Oh, sole, oh, sole mio, t'affronta a te, t'affronta a te. Tattoo.